24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Quando sento dire che qui stiamo andando verso una involuzione autoritaria, un sorriso si stampa sul volto, tanta è la assurdità di questa accusa. Altro che autoritario, dice Matteo Renzi. Quando sento e mi danno dell'autoritario, mi si stampa un sorriso sul volto. Più o meno il sorriso di Miriam Lucchetti che mi passa dei fogli, non lo so, è qua, cammina oggi a fatica perché c'ha le pinne ai piedi praticamente, cammina in redazione all'incontrario, sapete il passo delle pinne, quella chaft, chaft. È l'ultimo giorno di lavoro prima di andare in vacanza, qua si chiude la 62esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché decisiva per l'abolizione delle province, e la gente se ne va in vacanza. Impara da Matteo Renzi, che ha detto ai suoi: sarò qui, chiuso, fino al 31 agosto, a lavorare perché la macchina vada avanti. Così ha detto Matteo Renzi. Capito? Capito anche te, Peter Bescabè, che te ne vai in vacanza tra una settimana. Lui starà lì fino al 31 agosto, chiuso, a Palazzo Chigi. Finiti i tempi in cui si andava a Villa Certosa a fare le feste con Apicella, no, che cantava. Questo è il nuovo trend. Il nuovo trend è questo qui: stare rinchiusi a lavorare a Palazzo Chigi. Dai, apriamo il Parlamento, va. Chi mi chiede il primo settembre che fa? Ma non lo so. Il primo settembre va in ferie. Oh. Allora, capito Alessandro Giglioli, tu che te ne andrai in vacanza? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Milan. Come stai? Bene, bene. Giglioli è caporedattore dell'Espresso. Tu sul tuo Piovo Norane, cosa scriverai delle vacanze di Renzi? Non so, delle vacanze, già le scrivo, sì, di quello che... Se non le fa, cosa scrivo, Milan? Che domande trabocchette. Appunto, appunto, che non le fa. Dice che teneva la luce accesa a Palazzo Venezia perché vegliava in sonno e si Adesso, eccolo lì, subito, Renzi, come il duce, subito, Giglioli. Dai, su, su, non cominciare a far casino. No, sei tu, Milan, sei, tu. Sei tu. Una cosa importante, sì, che io sono... Io ricevo, come sai, parlo molto volentieri con te a quest'ora del mattino. Sì. Però sono solo in casa con mia figlia perché mia moglie è via per lavoro, quindi sì, se a un certo punto gli telespettatori sentono, lei si sveglia, sì, i radioascoltatori sentono una cosa tipo: papà, devo fare la cacca, tu fai finta di niente, parla con qualcun altro, va bene? Va bene, grazie, va bene. Grazie. No, così era una... No, volevo, ma... dirlo fuori onda, però sì, già, no, che c'ero. Già che c'eri, già che c'eri, non lo so, tanto c'è Silvia Brasca, buongiorno, del TG della 7, tu ti dovrai, buongiorno, assentare per qualche problema, devi dire, qualche urgenza, dillo subito, eh no, ma fate pure. Figura. No, ho marito che dorme, ho marito che dorme. Ah, ancora che, per poco, poverino. No, no. Che si sveglia e dice: devo fare pipì, scusa, no, ma quindi lo devi accompagnare. No, no, vabbè, vabbè, tutto a posto, quindi si può fare. Vabbè, comunque, tu hai parlato del duce perché lo so, perché secondo perché te... Perché tu mi ci hai tirato lì, non mi... No, perché secondo te Renzi è autoritario, io lo so. Ma non autoritario, parliamo seriamente, passiamo, entriamo in modalità seria, sì. Ha fatto una riforma che è chiusura del ceto politico in se stesso, perché i politici si autonominano fra di loro, cioè la Camera avrà le liste bloccate, il Senato sarà scelto dai vertici dei ma partiti. Scusa, ma se oggi non vuoi chiamarlo autoritario, guarda, oggi il ministro Maria Elena Boschi fa un'intervista al Corriere della Sera e dice, a domanda testuale di Tommaso Labate, giuro, dice: ci sono dei nemici di questa riforma in Parlamento? E lei risponde: l'importante è che non ci siano nemici tra i cittadini, e non ce ne sono. Ma ministro Boschi, ma i cittadini non la conoscono neppure questa riforma, non sanno. Se la conoscessero, forse qualcuno storcerebbe un filo il naso. Ma ai cittadini non gliene frega niente della riforma del Senato in sé, in che cosa prevede, tutte, no? o no? Silvio no, questa Brasca. Secondo me è una no, cazzata. È una cazzata. Questa è una cazzata. Bene, ho detto la prima cazzata alle 6:35 minuti. Ma no, non mi offendo. Ma figurati, secondo me sul momento non gli importa nulla a nessuno, poi col tempo. Ma certo. Che è chiaro, così, ma un po' come il conflitto di interesse, ci diceva non importa niente a nessuno. Poi Grillo ha preso il 30% perché non gliene importava niente. No, ma i cittadini, secondo te, allora, se il Senato sarà di 100 membri rispetto a 300 no, ma rotti, questo interessa. Che non potranno eleggere più nessun parlamentare perché i parlamentari vengono scelti dai partiti tutti. Ma questo c'è anche adesso. C'è anche adesso. Ma infatti sono 10 anni che ci diciamo che è cresciuta nell'opinione pubblica. Ma d'accordo, ma allora queste... L'idea che questo che il Porcellum faceva schifo. Dopo 10 anni che diciamo che il Porcellum faceva schifo, facciamo l'iper Porcellum. Comunque ho parlato troppo per parlare no, di... No, no, no, ma allora, la questione è, secondo me, la gente vuol sapere se ci saranno 100 senatori invece di 315. Ma guarda che la riforma è molto tecnica, come si eleggerà il Presidente della Repubblica, come, chi avrà no, diritto di veto. La riforma te la sintetizzo in due punti. Sì. Non eleggiamo più i nostri, non eleggeremo, non riprenderemo, preferisci così, ad eleggere i deputati e i senatori, perché saranno scelti al Senato dai vertici dei partiti direttamente attraverso i consiglieri regionali e alla Camera. Alla Camera con le liste bloccate. Ma questo è, questa è la legge elettorale, però sul Senato è la riforma del Senato, sulla Camera è la legge elettorale. È rappresentativo nel suo complesso quello di cui dobbiamo parlare, che poi si è diviso in due leggi, l'Italia come la Camera e la riforma del Senato per Palazzo Madama. Questa, come dire, questa è una technicality. Quello che in termini politici succede è che hanno fatto un nuovo impianto di rappresentanza democratica di questo paese. Vabbè, basta, mi taccio. Basta, si tace. No. Si tace, si è svegliata sua figlia, Silvia. Esatto. Silvia, secondo te i cittadini conoscono e ai cittadini interessa? Ovviamente a no, tutti in questo, i cittadini. In questo momento no, se ne accorgeranno. Ci sarà il favoloso mondo di Renzi, lo scopriranno, lo scopriremo anche noi. Sicuramente ci saranno, diciamo, dei fumi di distrazione sulla riduzione dei costi, che penso che in questo momento sia quello che forse interessi di più. Con un Renzi al 40% si va avanti. Ecco, quando poi ci saranno delle altre elezioni, le cose cambieranno. Non so se tra 20 anni ci sarà ancora questo impianto, almeno con la lentezza con la quale si cambiano le cose in Italia probabilmente sì, se riescono a farlo nella settimana decisiva. In questo momento temo che proprio adesso, in questi mesi, non gli importi niente. Ma no, ma io credo... Vogliono vedere se il cambio dell'Italia entra nel portafoglio. Ma esatto, non è che sto dicendo che gli italiani mediamente siano persone, non gliene frega niente di queste cose, Alessandro. Cioè, è chiaro che a molte persone interessa, noi parliamo tutti i giorni, ma nei 60 milioni di cittadini che tu incontri per strada, onestamente, quanti ti parlano e quanti conoscono e sono interessati alla riforma del Senato? Obiettivamente, Alessandro. Ma no, ma certo che è così, Alessandro, però vedi, a parte il fatto che le persone poi cambiano e si evolvono, una volta avevamo il Tinello, adesso la gente va all'IKEA, non c'è più il Tinello, cioè ci sono dei cambiamenti e delle possibilità Di evoluzione. Scusami, no? Civioli, scusami, il primo è che va all'IKEA ma non va più a votare, comunque Ma non va più a votare, ma non per la riforma del Senato, perché non credono più che la politica possa incidere nelle cose. Poco a poco capisco anch'io. poco Milano, anche se la gente non va più a votare, è perché il non si sente più rappresentata dai partiti. Una volta c'erano i partiti di massa, che erano un canale di comunicazione funzionante tra i cittadini e il palazzo. Adesso, per tanti motivi, la casta, la corruzione, eccetera, l'involuzione dei partiti, l'individuo della fine delle classi sociali, non stiamo lì a fare un tratta di psicologia a quest'ora del mattino. Questo sistema di canale di comunicazione fra i cittadini, fra noi cittadini e il palazzo, non funziona più. Allora cosa fa il palazzo? si chiude in se stessa. Si chiude in se stessa, ma tanto guardate, questo esempio di rappresentanza è una chiusura, quindi aumenterà questo tipo. Ma sapete tanto, noi stiamo parlando, ma sì, ma noi stiamo parlando di riforma, sapete cosa incombe? Scrive Repubblica, e io un pochino ci credo su questo, il 18 luglio, sapete che succede, cara Silvia Brasca, sai che succede il 18 luglio? Il 18 luglio si riuniscono in Camera di Consiglio per decidere l'appello al processo Ruby i giudici. Sì. E Repubblica scrive, ma è un rumor abbastanza diffuso, se ci fosse una condanna confermata, Berlusconi, Forza Italia fa saltare tutto, perché Forza Italia è decisiva come voti, no, sulla riforma del Senato, e quindi rischiamo, vrum, tutto fa saltare il banco così. Silvia, tu... Allora penseranno alle province, perché in questo momento mi sembra che si sia fermato. Sì, le province. Stiamo a vedere, ma il 18 è una bella data, però non... Stiamo a vedere. Secondo me ad Arcole non hanno ancora le idee chiare, perché se fa saltare il banco la cosa, ma mi sembra, visto anche la festicciola dell'altro giorno per raccogliere i fondi, che lì ci sono dei problemi veri e grossi. A proposito di festicciola, ma lo sapete che c'è un dramma in corso? Lo so. Lo sa. Giglioli, tu lo conosci questo dramma? No, mi sa che sono fuori da questo dramma. Apicella, non è stato chiamato, chiamata una band sconosciuta, Apicella, molto amareggiato oggi al Corriere della Sera, dice, vabbè, se uno non è più desiderato, meglio che se ne stia a casa. Comunque, dice Berlusconi, non è più quello di una volta. Quasi c'ho nostalgia anch'io. Ma sì, anch'io, rottamato Apicella. Ma è il momento del voto, attenzione, io tutti i giorni chiedo il voto all'inglese di Matteo Renzi, ai nostri ospiti, perché date un po', fate un po' il professoressa Brasca, professor Giglioli, siete pronti? Sentite, sì. Renzi. My personal experience, Europe was my mother who cried in the TV when she felt the Berlin walls destroyed by the people. Dice mia mamma pianse, Giglioli, mia mamma pianse quando vide il muro di Berlino crollare, però ha avuto un attimo, professor Giglioli, voto? Voto 9,5 in termini di comunicazione, perché fa come faceva Mike Buongiorno, che faceva le gaffe apposta per farti sentire uguale al popolo. Non è che la maggior parte degli italiani parla l'inglese meglio di lui. Lui ha parlato l'inglese maccheronico per farti identificare come uno di noi. Se avesse parlato un inglese perfetto, cosa che non so se è in grado di fare, ma insomma forse meglio di così, ci vuole poco. Sì. Se avesse parlato in inglese perfetto avrebbe dato l'immagine di uno diverso, no? Di casta, di elite. Lui invece è contro la casta. Si è fatto identificare come uno di noi. Va bene, 9,5. Poi diciamo la verità, americano. Molti parlava inglese benissimo, danni gli ha fatto. Americano. Senti, che è partita. Tu vuoi vivere alla allora, moda. Professoressa Brasca, 9,5. Mezzo ha dato Giglioli, un po' generoso. Ma no, la grammatica la sa, insomma, non fa errori di grammatica, però... La grammatica la sa, dai, su! Io, no, è importante, perché... perché i toscani, i francesi quando parlano inglese, o gli inglesi quando parlano le altre lingue, hanno una loro cadenza calata così forte che è molto difficile da togliere. E quindi, ecco, forse 9,5 in comunicazione, che è un'altra cosa. Sette pieno. Oh, ma che generosi questi professori. Sette pieno, va bene. Allora, dopo... No, te lo faccio sentire in italiano, Giglioli, sempre la stessa cosa, perché io voglio introdurre... Mi è arrivato un libro. Mi è arrivato un... Ne sai qualcosa, Giglioli? Mi sa che è colpa mia sta roba qua adesso. Giglioli ha scritto un libro, ma ieri Bertinotti ti ha già risposto. Ma Giglioli ha scritto un libro, La diaspora, dov'è oggi la sinistra italiana? Ti ha risposto ieri Bertinotti, è morta. Così ieri ha fatto un'intervista e ha detto la sinistra è morta. Beh, lui è una certa colpevole. No, vabbè, diciamo il suo porticino in questo senso l'ha fatto, ecco. Vabbè, comunque ti faccio sentire Renzi sulla questione del muro di Berlino in italiano, così dopo il traffico magari ne parliamo, dov'è finita la sinistra. Io ricordo mia madre piangere davanti al muro di Berlino quando l'Europa tornava a essere una e cadevano le frontiere e cadeva quel confine, ma vorrei sognare per la generazione che verrà un percorso di unificazione in cui l'Europa è il luogo della stabilità, della pace, della dignità. Ecco, questo è in italiano. In inglese, la versione inglese che vi abbiamo fatto sentire poco fa è questa. Di quello che ha detto in italiano, mia mamma piazza il muro di Berlino. Vai con l'inglese poi al traffico. My personal experience, Europe was my mother who cried in the TV when... In the TV, ha pianto nella TV. She felt the Berlin walls, walls destroyed walls. By the people. Vabbè. Nobody won. 24 mattino. Renzi c'ha tanta sfocchia, ma l'inglese lo parla peggio del ranocchio de macchia. Italiani, svegliatevi, perché a questi non cambiano mai. Da quando ascolto Alessandro Milan non ho più bisogno di vedere i telegiornali. Allora, io non sono arrabbiato con la Germania perché si è qualificata alle finali dei mondiali. Davvero non sono arrabbiato, anzi sono tranquillo, vi saluto, perché ora devo dedicarmi a qualche sano atto di teppismo domestico. Ciao a tutti. Oh, Ministro Martina, ma dove sei? Ma dove sei che non ti si vede mai? Lo sai che i beni strumentali agricoli sono esenti dall'IMU solo se hai 10.000 metri quadrati di terreno? E gli altri che non li hanno, però hanno i beni strumentali agricoli, cosa devono fare? Ma quando fai la riforma dell'agricoltura? Lo sai che siamo fermi al 93? Quando è che ti dai una mossa? Per adesso sei invisibile. Il match dell'Argentina con l'Olanda è stato una modesta sarabanda, con dei palloni alti su nel cielo, e la porta poi sfiorata per un pelo, ma il calcio di rigore fu furbesco, e con la benedizione di Francesco. Ciao da Felice Pautasso. Oh, è tornato Felice Pautasso. Ringrazio l'ascoltatore che mi dice che da quando mi ascolta è inutile che guardi Silvia Brasca sul TG della 7, i telegiornali. Capito Silvia, abbiamo rottamato i telegiornali. No, ma non è vero, caro ascoltatore. Però siamo qua. Allora, dove è finita la sinistra? Intanto chiariamo una cosa. Giglioli, Renzi certo non la incarna, mi sembra di capire dal tuo libro, no? No, se non in piccole parti. Beh, il libro è una palla immensa di quasi 300 pagine. No, quindi... come si conviene un libro sulla sinistra. Compriamo subito il campo, che questa è una marchetta. È una palla immensa di 300 pagine. Si parla molto di Renzi e delle ambivalenze del suo operato, delle sue dichiarazioni. Si parla molto, però per carità, nel mio piccolo, di rovesciare il cannocchiale, cioè non di parlare soltanto dei partiti, ma di parlare dell'elettorato di sinistra, che si chiama la diaspora, perché l'elettorato di sinistra si è diviso in quattro in Italia, fondamentalmente in quattro destini. Una parte vota PD comunque, vuoi per tradizione familiare, vuoi perché vede in Renzi una nuova sinistra, vuoi per i civatiani, eccetera. Una parte sta nel Movimento 5 Stelle, piaccia o non piaccia, milioni di elettori di sinistra sono nel Movimento 5 Stelle, una parte sta nell'astensionismo, una grossa parte, una parte più piccola, un milione e mezzo di persone nella sinistra radicale. E allora si racconta un po' come si è arrivati a questa diaspora e quali sono, e poi nella parte finale, che è la più pallosa di tutti, sì, quella teorica, se ci arrivate a questo punto, sì, se ci arrivate, certo, non è detto, poi se volete faccio un sunto di 10 righe che metto su Facebook, si racconta quali sono i valori della sinistra oggi. Vabbè, mi sembra giusto. No, comunque lo segnalo, la diaspora, compratelo. Perché in realtà ci sono anche delle cose interessanti, nonostante Giglioli si butti giù così, vedrete la partita? Parliamo un po' di calcio. La partita. Beh, Silvia Brasca, sì. Oh, Silvia, devo darti una notizia. Sai chi avrò ospite oggi alle 9? Alle 9.05? Sì? Il cavaliere Ernesto Pellegrini. Te lo ricordi? Ma dai, sì, povera stella, non ha mai vinto niente. Ma no, ha vinto una Coppa UEFA. Ma sì, è vero. No, è vero, povera stella. Esordisco. Ma no, ma fa. Ha comprato Rumeni. di calle rumenighe, ma dai. Calle spaccagli le palle, si diceva. Giglioli chissà quante volte sono stato giovane anch'io, avrà Mila, cantato in curva. Ma Silvia, devo esordire così. Ma no, ma io l'ho amato, ma poverino. No, mi ricordo che lui venne dopo Lady Renata, era una ragazzina, sì. Io mi ricordavo la Lady Renata, poi andate Pellegrini, che era un presidente molto nascosto rispetto anche appunto ai Fraizzoli e poi Moratti. No, appunto per quello lo dicevo, perché se era stato un presidente mite. Ma no, certo, ma se vuoi esordisco così l'intervista. Senta, lei non ha mai vinto nulla. Però ecco, ma no, dai. Ma no, fa ma lo chiamavano il cuoco di Agnelli perché faceva le mense della sera. Sì, fa unini. Adesso basta. Siate seri e siate un po' interisti. Ecco, dai, che ve lo dico io. Allora, il cavalier Pellegrini fa un'iniziativa lodevole, aprirà un ristorante a settembre che intitolerà tra l'altro a un barbone che morì quando lui era giovane e lui si era ripromesso di aiutarlo. Poi un giorno scoprì sul giornale che era morto di freddo, si chiamava Ruben, e chiamerà così questo ristorante Ruben per dare una dignità nell'accoglienza anche delle persone disagiate, eccetera. È un'iniziativa molto bella. Poi è un imprenditore, cioè te interista, va bene, ho capito, non si può aver tutto dalla vita, però no, è bella. Tra l'altro, il diritto al buon cibo da parte dei poveri è un tema che è un tema molto interessante. Parleremo con lui. Tra l'altro, voi avete parlato di Milan, ma io ieri ho Barbara Berlusconi con la maglietta del Milan, devo dire che è attizzato. Mira, che ci dici, dai, ma cosa vuol dire, sono sposato, posso avere anch'io miei pensieri. Allora vi faccio sentire uno degli eroi moderni dell'Italia, il comandante. Sapete chi è il comandante? No, cosa c'è, Silvia? È l'ospite di ieri. Sì. Ieri sapete che Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha lanciato la TV del Codacons invitando il comandante Schettino. Sentite Schettino, ce l'ha col timoniere, il timoniere. Quando gli dico di mettere il timone a sinistra, il marinaio inizialmente posiziona la barra a sinistra, dopodiché ci ripensa e va verso destra, vanificando l'estremo tentativo di porre in essere la manovra evasiva. Dalla scatola nera si evince che il timoniere è andato 20 gradi a destra. Invece di portare la barra fino a 20 gradi a sinistra per cercare di fermare, no, lo schiaffo della poppa, proprio per aggirare lo scoglio, va a destra. Pensa un po', Giglioli, una bella nave da crociera in cui il comandante e il timoniere non si capiscono perché parlano lingue diverse. Ma è tutto molto divertente, secondo... Mamma mia, ragazzi, che dobbiamo... Ma io Schettino ho problemi a capirlo pure quando parla italiano. Ecco, il problema è quello. Forse il comandante parlava benissimo in inglese. Esatto. Ma il problema è che, come dire, se è destra, sinistra, così. Va buo. La nave sta andando, va buo. Vabbè, che vi devo dire? Allora vedrete la partita. Il pronostico, perché è venerdì, poi non ci sentiremo più. Alessandro Giglioli, chi vince, Papa Ratzinger o Papa Bergoglio? Ma io sto per motivi politici e umani con Bergoglio, dai. Questo sarebbe il gol dell'Argentina, commentare. Questa è la telecronaca dei rigori, sentite qua. Per un rigore, dai, Silvia, per un rigore. Infatti, sono alla larga da sta roba qua e tengo per la Germania, nonostante Palazzo si merita la Germania. Pensa che due giorni fa ero a un convegno, c'era l'assessore regionale del Veneto, Maria Luisa Coppola, che ha detto pubblicamente, si parlava di Europa, eccetera, a me basta che la Germania perda, chiunque vinca, basta che la Germania perda. Ecco, per una volta, dai. La mettono così, quindi Giglioli dice Argentina, Silvia Brasca dice Germania, finirà con un bel pareggio la finale dei mondiali e tutti a casa. Va bene, secondo me vincerà l'Argentina, questo è stato il mio pronostico della vittoria mondiale, finale ai mondiali, ahimè devo dire. Va bene, grazie a Silvia Brasca, grazie a Alessandro Giglioli, posso ricordare ancora il libro? La diaspora, dov'è oggi la sinistra italiana, di Giglioli, Imprimatur editore, dai, compratelo in libreria. Grazie, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti. Forza, cari italiani, come dico io affettuosamente, debosciati d'Italia, visto che noi iniziamo alle 6:30, ma magari molti di voi si uniscono a quest'ora, ma siete i stra benvenuti nel giorno in cui si conclude la 62esima settimana decisiva per la riforma elettorale e anche per l'abolizione delle province. Siamo qui a parlare di quello che succede. Oggi parleremo un po' di politica, cercheremo di capire perché, per come, se un deputato va in carcere mantiene lo stipendio, ne parlavano ieri i quotidiani. Cercheremo di capire che succederà all'onorevole Galan, per il quale la giunta per le autorizzazioni a procedere ha dato il primo via libera all'arresto, ma ora si dovrà pronunciare l'aula di Montecitorio, pare martedì prossimo. E poi parleremo anche di una bella storia, avremo ospite Ernesto Pellegrini, il cavaliere del lavoro, imprenditore rinomato nel campo della ristorazione, ex presidente dell'Inter, che fa un'iniziativa, a mio modo di vedere, straordinaria. A partire da settembre aprirà un ristorante dove per un euro, al costo di un euro, si potrà mangiare con estrema dignità anche per tutte le persone che hanno bisogno, i tanti senza tetto, le persone in difficoltà. È tra l'altro un'iniziativa che lega a un suo ricordo d'infanzia. Avremo un incontro con lui, la storia di Ernesto Pellegrini sarà nostro ospite alle 9:05, perché ricordate, andiamo avanti fino alle 9:30. Andiamo allora a leggere i giornali, dai. È venerdì 11 luglio, è venerdì, caro Peter Bescapè, sei contento? Beh, ricordati che domani comunque Platone alle 9 in onda con Leonardo Manera, con me, facciamoci un po' di pubblicità anche, con Luca Clobas, con Danilo Vizzini, domani alle 9, nuovo programma di Radio 24, alla seconda puntata, non mancate! Allora, i titoli intanto invece per quel che riguarda i giornali, il Sole 24 Ore apre sui dati molto negativi, soprattutto dei dati da produzione industriale, borse e produzione gelano la crescita. Questo è il titolo di prima pagina. Poi il Senato, accordo sul nuovo Senato per il Corriere della Sera, Repubblica, Senato primo sì, Renzi, non parlate di autoritarismo. Il Giornale, il Senato sbaracca, La Stampa, intesa sul Senato, Renzi, non temo il voto in aula. L'Unità, accordo sul Senato, si cambia. Il Messaggero invece sulla riforma della pubblica amministrazione, dirigenti licenziabili e pubblica amministrazione digitale. Questo è il titolo di prima pagina. Libero invece ha un'esclusiva, il memoriale di Gian Stefano Frigerio in carcere per la vicenda Expo. Expo, vi racconto gli affari della sinistra. E poi l'apertura del Fatto Quotidiano, l'ho tenuta per ultima perché da qui voglio partire, è una pagina dedicata ai nostri amati parlamentari, l'imperativo in questo caso e la premessa è la solita, mani strettissime sul volante per la notizia che vi sto per dare. È il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, 400.000 euro esentasse per ogni onorevole, altro che tagli. Pagina 2 del Fatto, tutti i dettagli raccontati da Marco Palombi. Ecco il tesoretto dell'eletto. Ogni anno per i parlamentari esentasse 80.000 euro. L'ultima volta, scrive il Fatto, ci ha provato giusto un anno fa Stefano D'Ambruoso, deputato questore della Camera. Nulla da fare, è andato in ufficio di presidenza, ha proposto una via per ridurre il costo dei parlamentari, via le indennità accessorie e servizi agli eletti come ufficio, segreteria, telefono. Risposta? Vedremo. La verità è che, racconta il Fatto, c'è un tesoretto di 80.000 euro esentasse l'anno per i parlamentari. Sono i rimborsi automatici, cioè quelli pagati dalle rispettive camere senza nemmeno la presentazione di un contratto, di un scontrino, di un biglietto. 6.779 euro al mese. Per il Senato sono 7.240 euro. L'anno fa rispettivamente alla Camera 81.588 euro, al Senato 86.880 euro. Insomma, in una legislatura 407.940 euro per i deputati in 5 anni esentasse. E questa è solo una parte della paga. In totale prendono 11.770 euro al mese, circa cioè 140.000 euro l'anno. A questi soldi vanno aggiunti 1.200 euro l'anno di spese telefoniche, 1.850 per il cosiddetto esercizio di mandato, fanno insomma altri 23.400 euro al mese. In tutto parliamo di 163.000 euro l'anno. E poi appunto c'è questo tesoretto. L'ha detto tra l'altro lo stesso Galan nella sua intervista al Fatto Quotidiano, quando ha detto: involontariamente la finanza che mi accusa di vivere al di sopra delle mie possibilità non ha calcolato la parte non imponibile dei miei stipendi di deputato, che è più cospicua dell'imponibile. E come? C'è una parte non imponibile? Ebbene sì, sono 400.000 euro in una legislatura di 5 anni, dunque 80.000 euro l'anno. Vi è venuto un po' di rabbia? Vi è venuto un po' di amarezza? Vabbè, Mattia Feltri oggi sulla Stampa racconta tra l'altro che proprio alla Camera i questori, e noi avremo ospite uno dei tre questori, il deputato del PD Paolo Fontanelli alle 8.15 per parlare di questi stipendi ai deputati in carcere, magari anche di queste spese. Beh, i questori stanno cercando per preoccupazione di intervenire per fermare quello che Mattia Feltri descrive come il folklore alla Camera: spigole, fischietti, insulti. La Camera dice basta al folklore. Pagina 7 della Stampa, l'ultima guasconata è del gruppo della Lega. Un paio di mesi fa 20 deputati che soffiarono contemporaneamente in alcuni fischietti per azzittire il sottosegretario Delrio. Del resto la Lega è la cantera politica da cui è uscito il più funambolico parlamentare dell'intera storia repubblicana, Gianluca Buonanno, uno che nella storia, e che ora è finito tra l'altro all'Europarlamento, ha esibito un finocchio quando si discuteva di omosessuali, un forcone, una molletta applicata al naso, cerone nero in faccia, un paio di manette, un cartello per dare dei mafiosi a quelli del PD, una palla da carcerato con catena, bolle di sapone. Insomma, ha fatto di tutto. Ebbene, i questori ora cercano di porre un freno a questo, si sono rivolti all'ufficio di presidenza perché faccia qualcosa contro il proliferare di manifestazioni carnevalesche. Una lettera spedita al capogruppo della Lega, tra l'altro, e con tutti gli altri si deciderà se inasprire le sanzioni per chi insistesse con allestimenti. Insomma, i questori non ne possono più e cercano di placare questa moda. Ci riusciranno? Chi lo sa, chi lo sa. Due notizie legate alla giustizia che provengono dal Giornale e da Libero. Prima della pubblicità, Libero racconta la vicenda di un personaggio che era entrato era salito sulla ribalta della cronaca qualche tempo fa per un'inchiesta abbastanza clamorosa, Alfredo Romeo. Vi ricordate di questo nome? Secondo i PM aveva corrotto metà comune di Napoli. Titolo di Libero a pagina 4: assolto, il fatto non sussiste. La Cassazione ha scagionato l'imprenditore Romeo dall'accusa di avere pilotato un appalto da 500 milioni di euro per la manutenzione delle strade nel capoluogo campano. Ora la procura indaga perché nessuno ripara più le buche. Ne parla Peppe Rinaldi, ma ne scrive anche Alessandro Giuli in prima pagina del Foglio. Il titolo è: vi ricordate Romeo, quello degli appalti napoletani? Il fatto non sussiste. Così la Cassazione. Alfredo Romeo, leggo da Libero, uno dei più importanti immobiliaristi italiani, proprietario della Romeo Gestione, arrestato, incarcerato, processato per corruzione sistemica relativa a un solo appalto al comune di Napoli nel 2008, è stato definitivamente assolto dalla Cassazione. Fine di una pessima storia per Alfredo Romeo, ma pure per l'ex presidente della provincia Antonio Pugliese, l'ex provveditore alle opere pubbliche di campagna e Molise Mario Mautone, uomo un tempo vicino a Di Pietro. Erano loro gli ultimi tre ancora incatenati all'inchiesta esplosa nel 2008. Secondo l'accusa, Romeo aveva organizzato un'associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, corruzione e altre 22 ipotesi delittuose, contando sull'influenza di mezza giunta. Invece l'assoluzione da parte della Cassazione. A proposito di giustizia, invece, il giornale si concentra su una delle nomine al CSM. È stato eletto, tra gli altri, il giudice Aldo Morgigni, racconta Anna Maria Greco a pagina 5 del giornale. Fa carriera il giudice che lasciò un innocente agli arresti per un anno. Il GIP Morgigni entra a Palazzo dei Marescialli, ecco lui, cioè l'organo di autotutela dei magistrati, ecco lui, scrive il giornale, che a febbraio 2010 ha sbattuto in galera con grande clamore mediatico il fondatore di Fastweb Silvio Scaglia, insieme ad altri, per quella che nella sua ordinanza aveva definito una delle frodi più colossali mai poste in essere nella storia nazionale, l'evasione di 330 milioni di euro di IVA. Peccato, scrive il giornale, che giusto a ottobre scorso l'imprenditore Scaglia, che ha cablato l'Italia, sia stato riconosciuto innocente con formula piena dopo aver trascorso 80 giorni al carcere romano di Rebibbia e mesi agli arresti domiciliari, in tutto un anno, scrive il giornale. Ora il giudice Morgigni è nel CSM, dove giudicherà dunque e valuterà l'operato dei colleghi. Alessandro Milan, il master chef dell'informazione. Alle 7:34 minuti siamo ancora qui, cari ascoltatori. Allora, c'è un compromesso sul nuovo Senato, si sblocca la riforma, così titola il Corriere della Sera in aula lunedì. Ma è davvero tutto questo ottimismo ciò che fa capolino a Roma? Chissà, chissà, perché ci sono notizie contrastanti al riguardo. Non è detto che ci sia tutto questo ottimismo. Allora, intanto c'è da dire che il ministro Boschi fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistata da Tommaso Labate a pagina 8 e 9. Dice: ritocchi possibili dal leader di Forza Italia, dunque Berlusconi, prova di serietà. Se devo essere sincera, non temo imboscate in aula, così il ministro Boschi. Certo, non definirei storica questa giornata, non esageriamo, ma è stato ottenuto un risultato importantissimo. Il risultato di oggi mi fa essere molto fiduciosa. La tematica principale però dell'intervista di Tommaso Labate è questa: sì, ma lei si fida di Berlusconi, che negli ultimi 20 anni ha fatto e sempre disfatto accordi? Da parte di Berlusconi, scrive, risponde la Boschi, sulla riforma del Senato e anche sulla legge elettorale c'è stata una prova di serietà e concretezza che non possiamo non riconoscere. Non penso che Forza Italia possa cambiare, ma in quel caso saprebbe benissimo che dovrebbe spiegarlo agli italiani. E poi questa domanda: quanti nemici ha questa riforma? Sentite la risposta del ministro: l'importante è che non ne abbia tra i cittadini, e infatti non ne ha. Ma insomma, da dove tutta questa sicurezza non si capisce, a parte che secondo me, sostengo, i cittadini non conoscono neanche e non si interessano moltissimo nella grande maggioranza della riforma del Senato. Comunque, dice la Boschi, l'importante è che questa riforma non abbia nemici tra i cittadini, e non ne ha. Tra l'altro, nel retroscena che quotidianamente c'è sul Corriere della Sera, firma Maria Teresa Meli, su Renzi continua a essere soddisfatto. Se la raccontassero come vogliono, ma quello che stiamo facendo è andare contro tutte le posizioni di privilegio, ci credo che ci sono quelli che tentano di venirci addosso. Così Matteo Renzi e i suoi, continua a definirli gufi. Non ci sarà alcuna manovra aggiuntiva. E poi, dice Renzi, sarò qui fino al 31 agosto, qui chiuso a Palazzo Chigi, per mandare avanti la macchina. E ancora, se l'Italia farà le riforme, non solo uscirà dalla crisi, ma avrà un ruolo di leadership in Europa. Ma tutto questo ottimismo davvero c'è? Guardate che se si leggono invece le notizie riguardanti Forza Italia c'è un po' meno ottimismo. Intanto il Corriere dice i dubbi di Berlusconi, mantenere i patti oppure prepararsi alle urne, ma soprattutto il retroscena più corposo sui dubbi di Berlusconi, anzi sono due, i più corposi sono su Repubblica e La Stampa. Repubblica con Francesco Bei a pagina 2 e 3 scrive che aleggia un fantasma su tutta questa riforma del Senato e sul sì detto da Berlusconi. Il fantasma è presto detto, il processo di appello per Berlusconi, condannato già in primo grado per la vicenda Ruby. Il 18 luglio, dunque tra una settimana esatta, i giudici della Corte d'Appello di Milano si riuniscono in Camera di Consiglio per decidere se confermare la condanna in primo grado a Berlusconi oppure no. Cosa accadrà in caso di condanna a Berlusconi? Chiede Francesco Bei di Repubblica. Beh, il deputato del PD Paolo Corsini, che è uno di quelli che si oppongono alla riforma del Senato, avrebbe detto a Pino Pisicchio, collega parlamentare, il nostro obiettivo è proprio tirarla per le lunghe fino al 18. Quando ci sarà eventualmente la condanna, Forza Italia salterà in aria e tutto potrà essere messo in discussione. Titolo del retroscena: il fantasma del processo Ruby. Silvio condannato e salta tutto. E così anche sulla Stampa. Ugo Magri racconta a pagina 4: il Cavaliere frena sui tempi ora, mentre c'è Verdini, che è l'ala che sponsorizza in Forza Italia questo accordo, e a chi si mette di traverso, racconta Ugo Magri all'interno del partito, urla bischeri, bischeri, non capite che è il miglior accordo possibile. E invece Berlusconi, soprattutto su suggerimento di Fitto, comincia a essere insospettito da tutta questa fretta sulle riforme. Perché non siamo in Formula 1, gli ha fatto sapere Fitto. E allora Berlusconi sospetta che Renzi voglia incassare due o tre riforme da esibire in pubblico come trofei, la legge elettorale tagliata su misura per lui, dopodiché se il braccio di ferro con la Merkel finisse male, se Angela ci imponesse una manovra a lacrime e sangue, Matteo cercherebbe di mettere in piano il piano B, e cioè andare a votare, avere un Parlamento cacciando fuori i serpenti, scrive Ugo Magri, e sono tanti che si annidano sotto le foglie, e dunque avere un Parlamento più disponibile ad accettare tutto quello che andrà fatto. Berlusconi sta cominciando a convincersi che potrebbe essere questo il piano B da temere, e dunque c'è un Berlusconi che da una parte, come racconta il giornale, dice mi fido di Renzi, chi vota no è contro di me, e dall'altra parte invece teme questa fretta di voler incardinare subito le riforme messa in campo da Renzi e dalla sua squadra di governo. Intanto teme la fretta anche Galan. C'è stato il primo sì all'arresto di Galan, è arrivato in giunta per l'autorizzazione a procedere, parleremo alle 8.45, avremo ospite anche l'onorevole Rabino, che è colui che è stato il relatore del caso Galan. La vicenda ora passa alla Camera, dove martedì è incardinato il voto, il verdetto, anche se Galan tenta e spera di rinviare tutto dopo l'estate. C'è un'altra possibilità, racconta Repubblica, il cosiddetto decreto Orlando, cioè quel decreto che vuol far valere una norma anticarcere per pene fino a 3 anni, per la quale spera Galan si possa applicare in caso di richiesta d'arresto anche per lui. Insomma, è una grande attesa, come potete immaginare, quando si decide anche se mandare in carcere una persona, una grande attesa soprattutto per Giancarlo Galan, che è accusato ma dice ancora una volta sono innocente, ho voluto credere fino in fondo che valutare in merito alla libertà di una persona prescindesse da orientamenti politici. Così non è stato, non posso che prenderne atto con amarezza e sconcerto, ma io sono un politico innocente, non smetterò semplicemente perché è la verità e non smetterò di ripeterlo. Così Giancarlo Galan dice della situazione, staremo a vedere. Ma a questo punto, stranamente, per una questione associata al possibile carcere, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Buongiorno, come buongiorno stai? Alessandro, per adesso sto a piede libero. Dove stai? Appunto, mi farebbe da dire dove stai. È la classica telefonata al giorno che ti consentono di fare? Sì, non lo so com'è questa vicenda, cioè se devo restare un po' preoccupato visto questa associazione che tu continui a fare come dire, vicende carcerarie e il mio intervento. Comunque, no, ero qui tranquillo che leggevo il Sole 24 Ore, tra l'altro c'era tutta una pagina molto interessante di Bussola, sai che ieri ti segnalavo questa bussola per orientarsi un po'. Sul Palladio, bravo, vedo che sei attento. Vedi, mi sono già cautelato, ho preso chili e chili di Palladio. Molto bene, l'anello di Palladio no. L'anello di Palladio. Non l'hai cercato, va bene. Bene, però anche oggi abbiamo una bussola, tra l'altro molto interessante, una tabella che abbiamo in pagina 4 con i rendimenti reali dei vari investimenti, quindi vedere un po' in prospettiva, secondo il momento dell'investimento, quanto poi si può immaginare di ricavare. Certo, finché tu i 2 euro li tieni in tasca non è che ci possiamo fare molto, noi come dire cerchiamo di fornire delle informazioni magari per investitori un pochino più dinamici di te. Certo. Vabbè, guarda, adesso l'Unione Europea cos'è che ci chiede per le quote latte? 1.400 milioni, e io 2 euro, ecco, quelli magari metterò a disposizione una parte del capitale. Va bene, stai attento a fare queste promesse, perché guarda che c'è anche la tua foto oggi nelle pagine del 24 ore, quindi ottimo. Sanno come sei fatto, sono come la tua faccia, quindi a furia di augurare il carcere ad altri non vorrei ma che no, poi... che augurare? Non si augura mai a nessuno il carcere. Come, sempre mi chiami in causa quando ma non ti auguro niente, di manette, di cose. Non ti auguro niente. Senti, invece hai visto c'è questo dietro front di una IPO, cioè di un debutto in borsa, e anche lì insomma nelle pagine di finanza spieghiamo i motivi di questo ripensamento e anche però il consuntivo per adesso dei vari debutti in borsa e di quelli che sono attesi entro l'anno. Ma ripensamento di chi? Di Rota Pharma, che ci ha ripensato e ha deciso, ma i motivi sono abbastanza articolati, non riusciamo a dirli in 20 secondi. Invece ti volevo segnalare, tu sai cos'è un flagship store? Vabbè, allora qui bisogna sapere anche l'inglese, caro mio. Chiuditi nel palazzo tutto agosto e studia. Appunto, insieme a Renzi. Hai visto che c'è. No, ma nel nostro palazzo, non nel palazzo presidenziale, adesso non facciamo confusione. Un flagship store può essere un marchio, cioè sono quei negozi che vengono fatti dalle grandi, di solito dalle grandi aziende, imprese basate su imprese multinazionali e così via, che vengono costruiti tutti con un certo tratto distintivo, sono molto riconoscibili. Bene, secondo la Corte Europea possono essere addirittura registrati come dei marchi, come se possono essere brevettati in qualche modo. Interessante. E questo è interessante anche perché noi italiani siamo abbastanza attivi anche nel design di queste attività e quindi te lo volevo segnalare come una buona Benissimo. Notizia. Io ti segnalo poi invece Mauro che alle 9 avrò ospite il cavaliere del lavoro Ernesto Pellegrini, interista doc. Salutalo caramente da parte mia. Lo sto dicendo a tutti gli interisti quando li incontro. Sì. Guarda, questa cosa ci fa molto piacere. Chissà, forse era meglio prima. Ma no, vabbè, non fare il nostalgico, dai. È un po' la lacrimuccia, no, però viene, lasciamo stare l'Inter del record, vabbè, quando si giocava ancora 2 punti, era una cosa seria, vabbè. Non importa. Senti, ma il mio tempo però si è concluso, non nel senso che devo andare in galera, no. Devo passare la linea. Esatto. Va bene, allora, buon fine settimana a tutti e traffico! Don Alejandro Milan è il soro dell'informazione. E va bene, allora, parliamo anche spagnolo. C'è da dire che ieri abbiamo raccontato di questo retroscena di cui si vocifera da giorni di una possibile concessionaria pubblicitaria che starebbero mettendo in piedi niente meno che Mediaset e De Benedetti, e dunque i due grandi nemici dal punto di vista imprenditoriale, coinvolgendo anche RCS. Oggi c'è sui giornali, ci sono alcuni articoli molto interessanti su questo. Vi segnalo Il Fatto Quotidiano con Virginia Della Sala, pagina 9, pubblicità sul web a rischio l'inciucio, così lo chiamano, tra De Benedetti e Berlusconi. C'è stata una smentita del gruppo Espresso sull'alleanza con Mediaset insieme a Banzai e a RCS per cercare di arginare lo strapotere di Google e Facebook nel mercato delle inserzioni online, soprattutto come succede in tutte queste grandi possibili alleanze industriali, c'è il classico anche retroscena e ci sono anche dei veleni che si spargono. Oggi, per esempio, Libero fa un'intera pagina con Cristiana Lodi a raccontare questo: macchina del fango su Marina Berlusconi. Pagina 5. Il Fatto ieri ha stuzzicato l'Espresso sull'intesa Cavaliere De Benedetti, proprio l'intesa di cui stiamo parlando, e allora il CDR, cioè la rappresentanza sindacale dell'Espresso, ha risposto: il direttore garantisce che pubblicheremo alcune intercettazioni che teniamo nel cassetto sulla presidente di Mondadori, che, racconta Libero, non è stata mai indagata. Di che si tratta, secondo Cristiana Lodi, che racconta ciò che fanno sapere dal Fatto Quotidiano, che hanno sentito quelli del Messaggero, sentite l'intrigo come si complica, ci sarebbero delle intercettazioni relative a Marina Berlusconi, alcune intercettazioni al telefono con il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. In queste intercettazioni l'Espresso dice, o meglio il CDR dell'Espresso, ci sono nel cassetto e il direttore ci ha assicurato che prima o poi verranno pubblicate per chiudere il cerchio e far capire, insomma, che questa alleanza non sa da fare. Addirittura siamo alle minacce di intercettazioni da pubblicare. Veleni, e il Libero dice macchina del fango in arrivo. Vabbè, il Sole 24 Ore, oltre agli articoli che ci ha detto Mauro Meazza, vi segnalo anche Visco, il direttore di Banca Italia, che dice riguardo alla crisi: arrivano 200 miliardi di liquidità dalla Banca Centrale Europea per dare credito all'economia. Visto che lo stesso Visco ha detto la ripresa stenta ancora, e su tutti c'è questo dato dell'Istat sulle produzioni industriale che scende dell'1,2% rispetto al mese precedente, una sorta di doccia fredda che è arrivata ieri. L'industria in caduta a maggio, titola ancora il Sole 24 Ore, con Renzi che però non si preoccupa più di tanto e dice: ogni giorno leggiamo questi dati dell'Istat, ma nessuno, per esempio, dice che l'occupazione a maggio ha fatto registrare un più 59.000 unità. Dunque non mi preoccupo per questi dati. E Renzi, che conferma, come ha sempre fatto anche Padoan, come ha detto anche qui a questi microfoni quando l'ho intervistato poco prima delle europee, no a manovre correttive. È già la ventesima volta, d'altronde a domanda si risponde, che assicura non ci sarà bisogno di manovre correttive. C'è bisogno invece, racconta il cardinale Pell, cardinale australiano, in un'intervista al Corriere della Sera: c'è bisogno di più pulizia all'interno dello IOR. Ce l'hanno chiesto i cardinali, basta scandali in Vaticano. Intervistato da Maria Antonietta Calabrò, a pagina 19 del Corriere, racconta il cardinal Pell la rivoluzione in Vaticano. Basta con questi scandali. I cardinali un anno fa me l'hanno detto. E allora basta con casi come Calvi e Sindona. Basta leggere sui giornali scandali. Trasparenza finanziaria, professionalità, onestà. Questi saranno i cardini della rivoluzione in Vaticano lo IOR. Ne aggiungo un'altra: contributo dei laici. La Chiesa è un popolo, non ci sono solo i sacerdoti. I laici entrano a pieno titolo, votano, prendono decisioni. Ha una visione molto fondata dal punto di vista teologico. E alla domanda su se ci siano state reazioni negative alle novità, risponde il cardinal Pell: la grandissima parte dei cardinali è d'accordo. Come dire, se c'è qualcuno che non è d'accordo, fatti suoi. C'è ovviamente molto di esteri. Vi segnalo soprattutto la grande preoccupazione che monta in Israele e territorio palestinese con la possibilità dell'entrata delle truppe via terra della striscia di Gaza, le truppe israeliane ovviamente, i tank al confine di Gaza. L'articolo che mi interessa di più segnalarvi, in mezzo ai tanti articoli di cronaca ovviamente degli inviati, è di Umberto De Giovannangeli a pagina 9 dell'Unità. Che cosa ha fatto? Ha analizzato i disegni dei bambini. E nei disegni dei bambini, sia palestinesi sia israeliani, c'è tutto l'orrore della guerra. A Gaza, per esempio, i bambini disegnano con gli occhi, disegnano loro stessi con gli occhi e le orecchie come punti di debolezza, perché gli occhi sono quelli che vedono i bombardamenti e le orecchie sono quelli che li sentono i bombardamenti, e invece le gambe lunghe come punti di forza, perché le gambe sono quegli strumenti per i bambini che servono a scappare quando arrivano i bombardamenti. E a Sderot invece in Israele la vita lì è una roulette russa, è la città israeliana più bersagliata dai razzi palestinesi, quella che è considerata l'entità sionista da distruggere da Hamas. Lì i bambini hanno la parola più pronunciata, che è Pashad, paura. E anche lì i bambini spesso si rifugiano, tornando da scuola, sotto i tavoli delle case. Le mamme, i papà, che pensano all'inizio che fosse un gioco, invece con l'analisi degli psicologi fanno capire che è una forma primitiva di autoprotezione dal terrore, dalla paura, dal rischio. Beh, ve lo segnalo nei disegni dei bambini, le gambe lunghe per fuggire sull'unità. È il momento di chiudere per oggi la carta costa va alla stampa. Ebbene sì, perché ci doveva essere l'articolo sui due papi a proposito di papi. È troppo tardi per i papi, niente finale. Andrea Tornielli, vaticanista, ci fa sapere sulla stampa che Ratzinger non vede il calcio. Bergoglio è tifoso, ma va a letto presto. Non ha visto neanche una partita del mondiale. E quindi i papi non vedranno Germania-Argentina, tantomeno insieme. Interessante, interessante. 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Devo dire che ieri, quando in rassegna stampa ho letto la notizia riportata da tutti i giornali per cui i deputati o i senatori che finiscono arrestati mantengono comunque lo stipendio, sono arrivati una serie di messaggi, sms, mail, il cui tenore, il cui contenuto potete immaginare. La vicenda è legata all'arresto del deputato Francantonio Genovese. L'aula ha dato via libera all'arresto, lo sapete, qualche tempo fa. Il Movimento 5 Stelle aveva sollevato questa questione: ma se una persona è indegna di essere libera in questo momento, può essere degna di mantenere lo stipendio? In fondo scriveva anche Libero: se un dipendente della pubblica amministrazione viene arrestato, spesso viene sospeso dal servizio e dalle funzioni, e il suo stipendio viene bloccato. Per un parlamentare invece non è così. Voglio partire da qui per salutare il questore, uno dei questori della Camera, deputato del Partito Democratico, Paolo Fontanelli, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno onorevole. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, lei può immaginare che una notizia del genere non aiuta, non contribuisce ad avvicinare la politica al sentire comune dei cittadini, quella di Genovese. Beh, questo sì, però il tema, il degno, diciamo, come veniva detto, se è degno o non degno, credo che debba stare, diciamo, nell'ambito del percorso processuale. Insomma, fino a che un processo non si è concluso, insomma, l'arresto fa parte di una procedura di indagine. Infatti, no? Si chiedeva di sospenderlo. Il punto qual è? Che va modificato, come dire, l'impianto della nostra Costituzione, perché l'articolo 69 della Costituzione prevede espressamente che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Questo non fu scritto casualmente in Costituzione, no? Che era una forma di garanzia sia dal punto di vista, diciamo, sociale, perché altrimenti si rischiava che a fare i parlamentari andassero solo coloro che se lo potevano permettere e fossero tagliati fuori tutta una serie di lavori, a partire dagli artigiani, lavoratori, cioè sì. Chi avrebbe, è chiaro, quindi aveva questo, ma era anche una garanzia dal punto di vista, come dire, proprio dell'attività parlamentare. Può esserci il caso, per esempio, di un arresto che avviene magari con non per corruzione o per altro, avviene magari nell'ambito di un'indagine che però può portare, come dire, o può essere motivato o dietro da una ragione di limitazione, diciamo, dell'attività politica. Ma è chiaro, quindi, infatti spesso si è detto l'indennità è una garanzia, abbiamo detto, è una tutela. Noi abbiamo detto sì, sospende, quindi ciò che è stato sospeso viene garantita l'indennità della Costituzione, mentre è stata tolta, sospesa, diciamo, fino a che non si concluse tutta la vicenda giudiziaria, è stata sospesa l'indennità. Sì. Cioè, no, la indennità che riguarda la parte dei rimborsi, cioè spese. Ah, beh, è chiaro, quello ci mancherebbe, che rimborsi di spese di era già stato fatto anche per il caso Papa. Quello ci mancherebbe, voglio dire, che quindi che, noi abbiamo detto che tipi di viaggio sono, può fare. Queste sono, diciamo, le regole attuali. Si può discutere e modificarle, ma ecco, ma infatti legge, quello che ha colpito, onorevole, è proprio questo. Si dice si deve cambiare la legge, però uno, viva Dio, se non la cambia il Parlamento, la legge chi la deve cambiare? Sì, però non lo si fa con una lettera, diciamo, all'ufficio di presidenza, si fa una proposta di legge, visto che è un gruppo importante, e si chiede che sia discussa e si discute come si fa con tutte le leggi, altrimenti diventano manifesti che servono per fare appunto un'azione di propaganda, ma non un cambiamento reale della legge. Però al di là della legge, dal punto di vista normativo, lei ci ha spiegato, non è possibile fare quello che chiedeva il Movimento 5 Stelle, ma al di là della legge, lei trova giusto che, come ripeto, un dipendente pubblico si viene sospeso dal servizio e viene bloccato, sospeso in attesa dell'iter processuale lo stipendio. Lei trova giusto invece che un parlamentare possa ricevere comunque una parte dello stipendio? No, io, al di là dello stipendio, il problema è che insomma, sui parlamentari sono previste una serie di elementi di garanzia in Costituzione, non casualmente. Ecco, quindi poi si può ragionare, a volte può apparire giusto, a volte può apparire ingiusto. Però io credo che sia corretto che vi siano elementi di garanzia per garantire l'indipendenza e ma quelli nessuno li tocca, onorevole, nessuno li tocca quelli, nessuno vuol togliere. Però nemmeno se uno viene, come dire, c'ha un'indagine in corso, viene richiesto un arresto, viene valutato che di autorizzare l'arresto, di per sé il processo non è finito, non è già condannato. Una cosa è quando sei in corso di processo, un'altra cosa è quando è finita e c'è una condanna definitiva, c'è la decadenza a quel punto. No, ma in quel caso sì, ma nessuno vuole toglierlo per sempre. Dico, si sospende in attesa dell'iter processuale, poi se sarà assolto gli si ridanno anche tutti gli arretrati, voglio dire. Questo non. Ripeto, è un tema, come dire, che presuppone, come dire, modifiche della legge. Se ne può discutere, non è uno che dice non si tocca, no. Però ci sono dei percorsi legislativi e prendano quelli e si discute. È chiaro. Oggi leggo sulla stampa che voi questori avete spedito una lettera o vorrete spedire una lettera per cercare di frenare quello che, come definiamolo, possiamo definire, onorevole, folklore, show in aula. Sa che, guardi, le faccio sentire un audio. Uno ve ne siete liberati, l'onorevole Buonanno, che è stato eletto europarlamentare e che ogni tanto tirava fuori spigole, fischietti, manette, eccetera. Sentite per esempio cosa fece con le bolle di sapone. Noi viviamo in un Parlamento dove alla fine chi racconta più palline, più palle, più funziona. Allora io le dico, signor Presidente, le palle che si vogliono raccontare. La smetta, intervengano i commessi. Vede le palline? Sono manifestazioni indegne. Eccolo lì. Quante volte finisce così, onorevole Fontanelli? E che volete fare voi per frenare queste cose? Beh, anche qui bisognerebbe intervenire di più sui regolamenti. Le cose sono molto cambiate rispetto al passato. Non è la prima volta, a volte c'erano tumulti, scontri, magari oggi ce ne sono meno di quei tumulti di tipo violento, però ci sono più fenomeni di questo genere, che vengono definiti folcloristici, ma sono fatti per acquisire l'attenzione mediatica, no? Oggi c'è la televisione, le riprese, e quindi tutto viene fatto in funzione che in quel modo si fa notizia. Ecco, si fa, facendo la cosa clamorosa si fa notizia, però questo alla fine finisce per togliere, diciamo, credibilità al Parlamento, ecco. Perché se diventa una roba del genere uno non dà tanta credibilità a quel dibattito. Come farlo? Bisogna rivedere un po' il regolamento. Io penso che su questo piano lì c'è la giunta della Camera che dovrà discuterne. Penso che debbano essere introdotte delle misure possibili che oggi non ci sono, più rigorose, sia per l'allontanamento dall'aula immediato dall'aula, per esempio, che già oggi già è possibile, l'espulsione. Sì, al terzo richiamo, oggi c'è al terzo richiamo, quindi in quel caso poteva fare bolle per tre volte, diciamo. Ecco, più severità, insomma, ci vuole espulsione immediata, più severità. Però ecco, leggo un'altra notizia sul Fatto Quotidiano, invece non so se legge o visto i giornali, dalla vicenda Galan, di cui noi poi ci occuperemo. Galan ha fatto questa intervista nella quale in pratica pratica ha fatto capire, ha detto che in maniera assolutamente legale esiste una parte dello stipendio dei parlamentari, per la precisione sono 80.000 euro all'anno, esentasse, sono i rimborsi, ma è così, cioè è vero, esiste una parte dello stipendio che non... Sì, sì, no, quello è vero. Ora Galan l'ha usata questa argomentazione per difendere, sì, cercare per difendere, di mascherare altre cose, ma insomma lasciamo perdere Galan. Invece è vero che c'è una parte, cioè, che sono la parte dei rimborsi, la indennità dei parlamentari, quella che si definisce indennità, all'ordo è circa 10.000 euro, al netto viene sui 5.000, 5.200, 4.900 a seconda delle condizioni. Quella è la indennità del parlamentare, è quella, ci sono che le è in linea con quella che è l'indennità che viene data anche più o meno negli altri parlamenti, Francia, Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre noi abbiamo un sistema di monetizzazione dei servizi, per cui abbiamo una voce che riguarda la diaria, cioè le spese per albergo o casa, per mangiare, per stare a Roma, ecco, nei giorni in cui c'è, che è una diaria. Ricordiamo, la prende anche chi sta a Roma. Questo è un punto, questo di è un punto dolente, un punto di discussione che è attorno a, cioè, su 3.500 euro. Sì, il fatto no, è chiaro. E poi abbiamo un rimborso di 3.600 euro mensili per le spese di mano, che significa anche la segreteria, i collaboratori, eccetera, eccetera. Ma certo, il fatto dice un tesoretto di 80.000 euro all'anno per parlare. Ma com'è possibile che sia esentasse? Bisogna metterci, esentasse, perché sono rimborsi, non sono lo stipendio, sono rimborsi di attività. In altri paesi questo tipo di attività, per esempio i collaboratori, le segreterie, le paga direttamente il Parlamento. In Francia ogni parlamentare ha un budget disponibile mensile di 9.000 euro che paga direttamente il Parlamento, quindi non sono soldi che vanno al parlamentare, però il parlamentare fa i contratti per i collaboratori e il Parlamento li paga. Quindi nel complesso della spesa, questa monetizzazione dei servizi che abbiamo in Italia è più bassa rispetto ad altri parlamenti. Ora, su questo noi stiamo discutendo, ci sono anche ordini del giorno che abbiamo approvato nell'ultimo bilancio, quello appunto di dire, andiamo verso una forma simile, standard europeo, cioè paga il Parlamento, no, i collaboratori. L'effetto di questo sarebbe, però, già abbiamo fatto delle proiezioni, un incremento non piccolo ma consistente della spesa della Camera, e quindi sono problemi che dobbiamo vorremmo vedere. No, per concludere le chiedo questo, onorevole, secondo lei, ma non è una provocazione ma una battuta, lei dice le palline di sapone tolgono credibilità, ma la credibilità del Parlamento e della classe politica italiana dipende anche dalle spigole mostrate da Bonanno, per cui si perde, oppure dal fatto che i cittadini sono sfiduciati perché non si fa niente, si lavora poco e si guadagna tanto? Io credo che la credibilità del Parlamento dipende dalla capacità di dare risposte ai problemi del Paese, no? Questo è indubbiamente il tema fondamentale, è quello, insomma, e non a caso si sta discutendo appunto anche una riforma costituzionale che è finalizzata a dare più efficienza al Parlamento, questo è l'obiettivo di fondo. Poi le altre cose ovviamente sono importanti, incidono, perché non fa bene al Parlamento le spigole, le bolle, come altre forme che in qualche modo presentano all'opinione pubblica, no? un dibattito, una discussione che è fatta tutta di propaganda e poco dei problemi reali della gente. Quindi bisogna recuperare questa dimensione per dare credibilità. Intanto io, nel ringraziarla, Paolo Fontanelle, ricordo, del Partito Democratico, è uno dei tre questori della Camera. I questori non l'ho detto, ma spesso ce ne siamo occupati, sono quelli che tengono anche i conti, quelli che proprio fanno tutti i conti e la cassa, nel senso che devono vedere come razionalizzare le spese di Camera e soprattutto hanno la responsabilità del bilancio. Ecco, esatto, responsabilità del bilancio. La ringrazio per essere stato con noi. Dopo la pubblicità noi parleremo del caso Galan. A proposito, siamo partiti a raccontare che, e ci ha spiegato l'onorevole Fontanelli, come mai andrebbe cambiata la legge, altrimenti anche un parlamentare che è sotto una situazione di arresto in attesa di un eventuale processo percepisce comunque l'indennità, percepisce lo stipendio, perché chiaramente è una tutela, è una garanzia del parlamentare, altrimenti andrebbe cambiata la legge. Questo è il motivo per cui anche l'onorevole Genovese, l'ultimo arrestato, percepisce lo stipendio. Parleremo di un altro parlamentare che rischia l'arresto, il primo sì all'arresto è arrivato dalla giunta per l'autorizzazione a procedere, è il caso dell'onorevole Galan. pare che martedì prossimo, se non cambia qualcosa, l'Aula debba votare definitivamente la richiesta d'arresto dei giudici di Venezia per il caso Mose. Parliamo di questo, ma se volete con le vostre telefonate, anche di quello che abbiamo sentito, gli stipendi dei parlamentari, so già la vostra rabbia, la vedo negli sms. Calma, calma, respirate, contate fino a tre e chiamateci all'800 24 0024. 24 mattina. Allora, siamo partiti dal racconto del motivo per cui anche Francantonio Genovese, che è agli arresti domiciliari, ci ha spiegato il questore della Camera Paolo Fontanelli, riceve lo stipendio perché andrebbe fatta una legge per modificare questa situazione. So che molti sono arrabbiati. Abbiamo raccontato anche ciò che scrive il Fatto Quotidiano, e cioè che 80.000 euro esentasse arrivano ai parlamentari, sono i rimborsi. Molti ci scrivono: ma come, se sono rimborsi bisogna presentare pezze d'appoggio? In realtà no, vengono dati questi soldi anche senza presentazione di scontrini, e questo è il motivo per cui sono esentasse. Michele da Roma ci ha chiamato, immagino per questi motivi. Michele, buongiorno. È caduta la linea, va bene. Allora, è caduta la linea, allora comunque continuate a chiamare 800 24 00 24. Vogliamo parlare invece della vicenda Galan, a proposito di persone che rischiano in questo caso l'arresto. Lo facciamo con due ospiti. Saluto il senatore Felice Casson del Partito Democratico, anche per lui un ritorno. Buongiorno senatore, ben ritrovato. Ci sente? Eccoci qua, adesso ripristiniamo la linea. Noi con le linee siamo un po' sfortunati. Saluto invece l'onorevole Mariano Rabino di Scelta Civica, lei c'è almeno. Buongiorno, bentrovati e un saluto ai vostri radioascoltatori. Allora, l'onorevole Rabino di Scelta Civica è stato il relatore del caso Galan nella giunta per l'autorizzazione a procedere. Intanto vuol spiegare agli ascoltatori una curiosità: come avviene la scelta del relatore? È una scelta casuale, una scelta a turno? Come avviene? È una scelta che è un po' a turno ed è nella discrezionalità del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Il Presidente Ignazio La Russa, lo ricordo, il 4 di giugno mi ha telefonato per chiedermi la disponibilità dopo aver chiesto ad altri colleghi che invece avevano rifiutato. Secondo un principio di turnazione, per cui per esempio il collega Leone era stato relatore sul caso Francantonio Genovese, sì, quindi non poteva più rifare la stessa cosa. Certo. Allora, intanto la linea viene ripristinata col senatore Casson. Buongiorno senatore, eccoci. Buongiorno. Senatore del Partito Democratico, parliamo ovviamente del caso Galan. Allora, onorevole Rabino, lei aveva già detto sarò favorevole all'arresto e c'è stato il voto favorevole della giunta. Ora deciderà invece in aula plenaria la Camera. Credo martedì prossimo, almeno questo è stato calendarizzato così è stato previsto. Intanto sì, c'è la possibilità che slitti, perché oggi i giornali raccontano che chiaramente l'intenzione di Galan, e immagino anche di Forza Italia, del suo gruppo, sia quello di cercare di prendere tempo perché slitti dopo l'estate. Diciamo che c'è questa possibilità, naturalmente questa possibilità va avanzata, va richiesta, e la Presidente Boldrini e l'Ufficio di Presidenza della Camera devono riunirsi e ricalendarizzare eventualmente la votazione. Perché lei, questo è una possibilità. È una possibilità. Perché lei era favorevole all'arresto, avendo letto tutti gli atti? Ricordiamo che la giunta non deve decidere nel merito delle accuse, deve decidere solo se c'è una persecuzione da parte dei magistrati nei confronti dell'onorevole in questione. La risposta è semplice, sta nelle sue parole, perché dopo aver letto, riletto, approfondito, ascoltato le voci diciamo dell'accusa, il GIP, la richiesta della procura, così come anche Galan nelle sue memorie difensive, dopo aver ascoltato il dibattito in giunta per l'autorizzazione a procedere, insomma, in 5 settimane ho maturato l'idea che la magistratura di Venezia non abbia avuto una ostilità preconcetta, un atteggiamento persecutorio nei confronti del deputato Galan. E allora, secondo un principio di assoluta comprensione generale, e cioè che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, ma anche che la legge è uguale per tutti, ho ritenuto che il deputato collega Galan debba essere considerato un cittadino come tutti gli altri. E quindi, siccome è un'inchiesta che non ha guardato in faccia nessuno, si è rivolta a destra e a sinistra, contro politici, imprenditori, manager, dipendenti privati, liberi professionisti, alti funzionari pubblici, non si vede perché il deputato Galan debba essere trattato per i medesimi addebiti diversamente dagli altri collegati. Allora, però la sensazione, qui vorrei arrivare al senatore Casson, senatore, lei tra l'altro veneziano, magistrato, ne abbiamo parlato anche del caso Mose di recente, la sensazione che il clima sia un pochino cambiato, c'è il caso Francantonio Genovese di recente alla Camera, ora Galan, un tempo non c'era questa apertura alle richieste d'arresto da parte dei magistrati, o no? Mi sbaglio. Ma è certamente così, nel senso che anche in recente passato, basta pensare alla scorsa legislatura, c'era state molte resistenze nella classe politica a concedere queste autorizzazioni per un malinteso senso corporativo, e invece le norme sono molto chiare, nel senso che il Parlamento deve solamente verificare appunto se ci sia questa intenzione persecutoria da parte della magistratura. Ma proprio tutti gli ultimi casi ci danno contezza che non si tratta assolutamente di questioni di tal tipo. E noi vediamo il caso Galà emblematico, lo ha illustrato molto bene poco fa appunto il nostro relatore, e diceva è una vicenda molto complessa, molto ampia, che ha riguardato tutti gli aspetti che hanno orbitato attorno al Mose, al concessionario Venezia Nuova, riguardava il centrodestra, il centrosinistra, seppur con forme diversificate, pubblico e privato, magistrati amministrativi e generali della Guardia di Finanza, e quindi il magistrato certamente ha fatto solamente il proprio dovere e andrà tutto verificato, ovviamente ci mancherebbe altro, questo è chiaro. Però intenti persecutori nei confronti di Galan veramente sono fuori della realtà. Lei è senatore, quindi non voterà ovviamente la richiesta d'arresto, ma voterebbe per il sì, per l'idea che si è fatto appunto, visto che ne abbiamo parlato, conosce le vicende veneziane. Guardi, io ho letto dall'inizio gli atti che poi sono stati ampiamente pubblicati perché sono stati depositati e quindi non erano più segreti, e quindi l'ordinanza di custodia cautelare, la richiesta della procura, diversi interrogatori di Mazzacurati, di Baita, di Orsoni eccetera. Direi che proprio il materiale probatorio è molto ampio, ma non va valutato questo, ma soprattutto i magistrati hanno fatto quello che dovevano fare e quindi certamente bisognerebbe votarlo con molta tranquillità. L'arresto. Allora, dopo il traffico però, ripartiamo da qui, c'è anche un decreto Orlando, così ne parlano i giornali da alcuni giorni. Questo decreto Orlando è un decreto che, secondo quanto si legge sui giornali, prevede per chi rischia fino a pene di 3 anni di carcere di evitare il carcere. Qualcuno ha già detto che è la classica norma che potrebbe salvare Galan, ed ecco qui la volontà di prendere tempo affinché entri in vigore questa norma che potrebbe evitargli il carcere. È davvero così? Lo capiremo insieme ai nostri due ospiti tra poco, dopo le informazioni sul traffico. Allora, alle 8:47 minuti, insieme all'onorevole Mariano Rabino di Scelta Civica, insieme al senatore Felice Casson del Partito Democratico, ci sono anche gli ascoltatori, immagino, sulla vicenda di prima. Vorrei sentire Lorenzo da Macerata. Buongiorno Lorenzo, che ci vuole dire? Lorenzo, ci sente? No, Luigi da Imperia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dire questo, che io sento, non so da che parte cominciare, fiume di parole da 20 anni su questi politici. Allora, io vedo che tutti scrivono libri, giornalisti, che tutti sanno chi sono i corrotti, la magistratura non fa che indagare, ci portano prove, telefonate, registrazioni, insomma io da 20 anni io non ho mai visto un politico, ditemelo voi se lo sapete, un politico che sia uno scontare un anno di carcere, 2 o 3 anni di carcere. Ne conosco uno, guardi, non so come mai. Chi? L'ex governatore Cuffaro della Sicilia è l'unico che è in carcere. Berlusconi, io non capisco in quale codice, io vorrei sapere in quale codice una persona condannata lì per evasione fiscale va a canticchiare Rosamunda lì agli anziani. Luigi, adesso è stata data, che dobbiamo fare? Raccontare tutta la storia giudiziaria di Berlusconi? Ma complici anche i giornalisti. Cosa c'entrano i giornalisti, mi perdoni? I giornalisti non ci vanno dentro in modo efficace. Ma guardi, non c'è nessuna speranza. Diceva, io cito solo Petrarca, diceva: io non scrivo per giovare i miei contemporanei, perché la loro situazione è talmente grave che non c'è nessun rimedio. E ci ha azzeccato lui. Viva Petrarca, caro Luigi. No, ma tutti, ma voi avete mai letto qualche riga di classici? Ma sì, da 2400 anni fa, sì. Questi si sono arrovellati il cervello per cercare di fare uno Stato almeno meno ingiusto possibile. Non c'è riuscito nessuno, nessuno. E poi c'è il Ministero della Pubblica Istruzione, che sarebbe l'ultima chance. Luigi, scusi, no, adesso la fermo, perché il Ministero della Pubblica Istruzione adesso non c'entra. No, per dar spazio anche ad altri, comunque il suo intervento è chiaro, insomma, molto disilluso. Paolo da Venezia, buongiorno Paolo. Buongiorno. Io volevo porre un paio di domande all'onorevole Casson. Sì. La prima, è possibile che ci siano voluti 20 anni perché Venezia ci si accorga di questo scandalo? Tutti lo sapevano, perché la gente ne parlava, nei bar se ne parlava, si sapeva che giravano le mazzette. E ci hanno impiegato 20 anni. Vedremo poi le accuse se vengono confermate. Però dice lei, a Venezia era diffusa. Il Vox Populi era questo, insomma, da questo non si scappava. Seconda cosa, cosa ne pensa l'onorevole della questione della delibera nascosta del comune di Venezia, dove la famosa gronda lagunare non prevedeva l'area dove doveva poi essere costruito? Questa è una cosa molto tecnica della quale io non so nulla, ma il senatore Casson vuole... Gli uffici tecnici del comune di Venezia sapevano che il palazzo si poteva costruire, ma si sono guardati bene da dare la visibilità anche giornalistica di questa cosa, in maniera che poi qualcuno si fosse svegliato. Va bene, senatore Casson, io sulla prima magari posso seguire anch'io, sulla seconda vicenda io non ne so nulla, non senatore. Sì, no, beh, la seconda è una vicenda molto particolare, che fa riferimento al palazzo che voleva costruire Pierre Cardin, quindi molto così. Io sono assolutamente contrario a qualsiasi segretezza, riservatezza negli atti amministrativi, salvo momenti molto limitati, però tutto deve essere fatto vedere, deve essere conoscibile, e di fronte alla richiesta di un cittadino, di un'associazione, di un partito, l'amministrazione deve dare qualsiasi atto, non c'è nessun motivo di segretezza. E perché invece per anni tutti, dice l'ascoltatore, a Venezia sapevano, tutti vociferavano, tutti raccontavano? Io farei una differenziazione. C'è l'aspetto, diciamo, processuale, giudiziario, e lì i magistrati hanno bisogno di prove, dico giustamente di prove all'inizio, di indizi per poter procedere, e un conto è la voce, un conto è così sentire o la voce da bar, un conto è avere delle persone che fanno delle accuse, acquisire degli elementi probatori anche attraverso intercettazioni, microspie di vario genere, e questa è una situazione. Sul punto di vista più ampio, sociale, politico, diciamo, ma lo sapevano, e segnali pubblici ce n'erano stati in maniera ripetuta. Io mi ricordo che dal 2006, da quando sono senatore, ho scritto almeno 7-8 interrogazioni specifiche attaccando il Consorzio Venezia Nuova, questi lavori opachi attorno al Mose, la zona grigia, aspetti criminali, dai livelli ministeriali a livelli amministrativi, di regione, non si è fatto assolutamente nulla. Andava bene che ci fosse questa marea di soldi che girava in maniera più o meno retta. Ma è chiaro, alla fine sono intervenuti i magistrati. Aggiungiamo l'ultimo punto. Quando si è costituita questa concessione unica per fare il Mose, si sono attribuiti il 12% di tutti i fondi, quindi una marea di soldi, praticamente per costituire un fondo che si chiamava di oneri, senza alcuna rendicontazione. Quindi con legge dello Stato si è detta al Consorzio Venezia Nuova: di questo 12% di tutti i soldi che abbiamo, fai quello non che farci vuoi, sapere non nulla. Il vizio d'origine è lì. È chiaro. Onorevole Rabino, lei ne sa qualcosa, ci illustri e ci illumini su questo decreto Orlando? È vero, esiste questo decreto Orlando, chiamato così dal Ministro della Giustizia? Sì, diciamo che è un decreto che voi giornalisti battezzate Orlando, un decreto del governo Renzi che è entrato in vigore il 28 giugno 2014, quindi una manciata di giorni fa, ed è un decreto che, contenendo tutta un'altra serie di norme, contiene anche una norma che novella, cioè modifica, riforma un po' l'articolo 275 del codice di procedura penale. La faccio più semplice perché sennò ci perdiamo i tecnicismi. Sostanzialmente questa norma consente, attenzione, consente, non prevede un automatismo, sì, al giudice, sì, al giudice di applicare la sola custodia cautelare domiciliare invece del carcere, sì, qualora l'inquisito, da lui inquisito, prevedibilmente avrà alla fine del procedimento giudiziario una pena non superiore ai 3 anni. Okay. È il caso di Galan? Diciamo che può esserlo lato senso, nel senso che il reato che oggi viene contestato a Galan prevede una pena dai 2 ai 5 anni. Però, vede, noi finiamo per fare un mestiere che non ci compete, che è quello del giudice. Sì, sì, no, è chiaro. Noi dobbiamo dire una cosa, dobbiamo dirlo, io l'ho anche detta conclusivamente nella mia relazione, sia la magistratura a valutare se nel caso concreto, cioè la vicenda di Galan, debba modificare eventualmente gli atti o i provvedimenti richiesti. Però certo, mi oggi faccia capire, la magistratura ci ha chiesto l'arresto, no, ma è chiaro, mi faccia capire, il decreto è in vigore dal 28 giugno, quindi deve essere convertito dal Parlamento, certo. Se viene convertito diventa legge, anche se è un decreto e quindi è già operativo, esatto. E se fosse applicabile a Galan, è lì che ci sono i rumors del voler temporeggiare perché entri in vigore questo decreto, per cui potrebbe, ci sono in Parlamento, sì, questi rumors, questo tipo di valutazione, cioè prima di eventualmente deliberare come Camera dei Deputati l'arresto di Galan, aspettiamo un attimo che questa norma si formalizzi, perché è una norma che tra l'altro, come ha detto benissimo lei, è in vigore ma potrebbe essere modificata, è chiaro, potrebbe decadere se non viene convertita, o decadere o modificata nelle prossime settimane in aula Camera e Senato, quindi anche dal senatore Casson questa norma tra qualche giorno, cioè in Senato, è chiaro. Quindi, qualcuno dice aspettiamo un attimo di, qualcun altro dice agiamo subito, il magistrato è già in grado ora di utilizzare o meno quella norma, per cui posto che non è un automatismo e quindi se il magistrato non l'applica non ha fumus persecutionis, ed è qui che noi ci dobbiamo fermare come giunta per le autorizzazioni procede per la Camera, cioè dobbiamo sempre valutare, certo, se c'è fumus o no. Ah, ma è chiaro. Se non è automatico non possiamo dire che il giudice ha fumus se non l'applica. È chiaro, ma intanto guardi, staremo a vedere, perché per il momento mi devo fermare e vi ringrazio onorevole Rabino e senatore Casson. Staremo a vedere se settimana prossima ci sarà martedì il voto per la richiesta d'arresto di Galan oppure no. Noi non ci fermiamo, dopo il giornale radio avremo ospite Ernesto Pellegrini, cavaliere del lavoro, imprenditore, ex presidente dell'Inter, ci racconterà una sua iniziativa. 24 mattino. Eccoci qui alle 9:08 minuti, ben ritrovati ancora da Alessandro Milan. Allora, ci sono momenti della vita in cui chi ha avuto molto successo capisce che è il momento di restituire qualcosa agli altri. Utilizzo volutamente questa frase perché so che è stata questa la molla che ha spinto l'ospite già ai nostri microfoni nel fare l'iniziativa, nell'intraprendere l'iniziativa di cui vogliamo raccontare. Il nostro ospite è un imprenditore di successo che ha lanciato un'azienda divenuta un impero nel campo della ristorazione. È stato anche un imprenditore che per 11 anni, e molti lo ricordano ancora così, è stato presidente di una delle squadre di calcio più amate in Italia, certo non amata quanto il mio Milan, ma insomma si tratta dell'Inter, è il cavaliere Ernesto Pellegrini che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie. Intanto guardi, non so se le è mai capitato di essere intervistato da uno che si chiama Milan, ma questo passa al convento. Guardi, ci stavo proprio pensando, dicevo, perché Milan e non Inter? Vabbè, questo capita. Capita, è il destino. Comunque, noi intanto l'abbiamo chiamata, grazie per essere con noi. Come detto, capo di un impero della ristorazione, vuole darci due dati per capire la realtà di cui parliamo, la Pellegrini S.P.A. Sì, sicuramente. È un'azienda che è stata da me fondata nel 1965 e dunque siamo all'alba dei 50 anni. Oggi la Pellegrini dà lavoro a 7.500 persone in Italia e in 6 paesi dell'Africa, ha un fatturato di 560-570 milioni ed è sempre in larga crescita e questo mi rende felice. Beh, questi sono i dati importanti. Allora, io sabato apro il Corriere della Sera e leggo una straordinaria storia, sì, a mio modo di vedere, che la riguarda, e cioè lei ha deciso, attraverso la Fondazione Pellegrini, di aprire a settembre un ristorante a Milano, un ristorante che tra l'altro avrà un nome particolare, si chiamerà Ruben, e non è un nome a caso. Chi era Ruben? Ruben era un contadino che ho molto stimato, che ha lavorato per tre generazioni, per i miei nonni, per i miei genitori e poi infine per me e mio fratello, ma per poco tempo. Era un contadino che viveva in una stalla, come tante persone, come tanti contadini a quell'epoca, non era l'unico, e avevo un letto di paglia. Purtroppo io avevo allora 20 anni, poco più di 20 anni, ci hanno tolto i terreni che avevamo in affitto per costruire delle case popolari. Dunque alla mia famiglia hanno dato un appartamentino di 80 metri quadri, una casa popolare. Purtroppo a Ruben è finito, purtroppo Ruben è finito in una baracca di legno, e questo mi era molto dispiaciuto, perché un uomo che ha lavorato tutta la vita per una famiglia non poteva finire così. E io mi ero ripromesso di aiutarlo, ma non ho fatto in tempo, perché allora i soldi erano pochi, non potevo, ecco, contribuire. Però mi sono detto: adesso comincerò a lavorare, lavorerò tanto, eccetera, e prima o dopo questo uomo avrà un letto e dormirà su un letto, un materasso, eccetera, eccetera. Purtroppo qualche mese dopo è uscita la notizia su un giornale del pomeriggio: Barbone muore assiderato. Era Ruben. E quindi mi sono detto che se un giorno dovessi così aiutare un po' il prossimo, e considerato che faccio il ristoratore, ma non solo, che faccio anche altre cose, dottor Milan, però insomma vado a chiamare questo ristorante con Ruben, nome, ricordando questo uomo straordinario. Ovviamente era un'altra Italia, lei a quell'epoca, a 20 anni se non sbaglio, lavorava alla Bianchi, era operaio, appunto per recuperare anche dei soldi. Non era operaio, era impiegato. Era impiegato alla Bianchi, voleva recuperare dei soldi, l'idea di poter aiutare questo uomo, e poi lesse appunto questa notizia sul giornale di questo uomo morto per il freddo, abbandonato. Per il freddo, ma erano inverni molto freddi all'epoca, e quindi non è stato neanche l'unico a morire assiderato, certo. Ce ne sono tanti. Quanto l'ha accompagnata Ruben nella sua vita per arrivare dopo così tanti anni a fare questa iniziativa intitolandola a lui? Ma mi ha accompagnato, la mia vita è anche fatta come tutte le vite di ricordi belli, quelli un po' meno belli. Ecco, io ricordo con grande piacere, con molto trasporto, i tempi della campagna, i tempi in cui i miei genitori coltivavano verdura per portarla, pensi, con un carretto e un cavallo al verziere di Corso 22 Marzo. Io stesso lì ho imparato a vivere, insomma, a conoscere il prossimo, perché vendevo dei prodotti, dei profumi, rosmarino, salvia, basilico, trattavo all'età di 10 anni, quindi mi hanno, come si dice, buttato nell'acqua e imparato a nuotare. Ovviamente questo ristorante, ho capito che è un ristorante solidale in cui si potrà mangiare a un euro, ma chi ci potrà andare e perché? Cosa le è scattata come molla di fare questa iniziativa? Intanto la molla è il mio desiderio di forte, non solo mio, ma di mia moglie, di mia figlia e di mio genero, Alessandro Ermolli, di ringraziare il buon Dio, il nostro Signore, per il tanto che ho avuto nella vita. Sono un uomo fortunato, anche se ho passato i miei momenti non belli, ma come tutti. Però insomma, io ho 20 anni, me lo consenta, ero un impiegato semplice, 23 capocontabile, 24 e mi offrono la possibilità, pensi, un sindacalista, sì. Allora era un componente della commissione interna che mi offre la possibilità di gestire la mensa aziendale della Bianchi, storica Bianchi, di biciclette eccetera. Il mio capo mi regala 150.000 lire a titolo di incoraggiamento, mm-hmm. E così io inizio un'avventura imprenditoriale che di successo con quelle 150.000 lire. Come non posso ringraziare il Signore? E con questa iniziativa, ma lei poteva fare per esempio un servizio di ristorazione, ha voluto proprio fare un ristorante, cioè crede che attraverso anche la dignità dell'accoglienza, la dignità, si possa restituire dignità alle persone? Assolutamente sì. Noi ovviamente, diversamente da altre mense dei poveri, questa si vuole distinguere nelle intenzioni, perché noi offriremmo un pasto caldo a persone che si trovano in una temporanea difficoltà economica, mi spiego. Chi ha perso un posto di lavoro, non arriva a fine mese oggi, ce ne sono tantissimi, chi magari divorziando deve pagare degli alimenti e non ha sufficienti soldi, anche ex carcerati, perché no, che cercano di inserirsi nella società a fatica, e così queste persone pagheranno un euro per salvare loro la dignità e potranno venire con le loro famiglie, con i loro amici anche, se è il caso. Naturalmente il nostro limite sono i 500 posti, 500 pasti, chiaro. Se sono due turni su 250 pasti. Persone, 500 in totale. Lei, come ben sa, ha citato la questione della crisi e ha fatto riferimento, sono tanti e sempre più i Ruben di allora, anche oggi, lo sa bene, che effetto le fa questo? Sì, è un effetto ovviamente non positivo. Mi dispiace che questo paese si trovi in questa situazione, ecco. Però io spero che dopo la nostra iniziativa ce ne siano tante di altre iniziative. Mi fa piacere dirle anche che sono aiutato in questo progetto, no? Intanto da un amico mio fraterno, l'ingegnere Giuseppe Orsi, con il quale ho maturato una certa sensibilità religiosa, diciamolo pure chiaramente, abbiamo condiviso e condividiamo dei valori umani, soprattutto verso quei bisognosi. Poi c'è mia figlia che è molto brava, il mio genero, insomma, siamo tutti, come dire, impegnati, allineati su allineati, questo. Allineati. Senta, cavalier giusta, Pellegrini, no? Io le chiedo questo, da imprenditore di successo, secondo lei cosa serve all'Italia oggi per fare impresa, cioè per davvero uscire da questo momento? Tre cose indispensabili, magari da chiedere alla politica, tre cose imprescindibili da fare subito, no? Non tra un anno, ma domani. Guardi, se mi dà un minuto cerco di spiegarle un'idea, sì. Non so se è un'idea valida, ma perché non sono un economista, ma sono un imprenditore che ha sempre avuto e tenuto i piedi per terra. Io penso che quando un paese, ma anche un'azienda, no, è fortemente indebitata, e come in Italia il debito aumenta, si può dire ogni mese, è difficile programmare degli investimenti, e senza investimenti non si va lontano. Mi domando come può esserci ripresa, come ci può essere crescita, e non ci sarà neanche lavoro, cioè in aumento, è chiaro, se un'azienda o un paese non investe. Cosa fare? Lei mi sta dicendo. Ma io ho un'idea malsana, cioè? Gli imprenditori, ci ho pensato, ma è da anni che ci penso, di verità, da quando c'è la crisi, gli imprenditori professionisti dovrebbero pagare una tassa una tantum che va a scalare il debito. perché io che mi sento abbastanza ricco, ricco anche di volontà, ricco anche per l'impegno che ci metto, il cuore eccetera, perché non fare qualche cosa per il mio paese che è in difficoltà? Ma così lo devono fare tutti, anche gli impiegati e gli operai, che devono migliorare la produttività, magari ritornare a lavorare quattro ore in più alla settimana. Una nuova tassa, ma ce ne sono tante di tasse, lei cavaliere Pellegrini. Ma no, ma questa è una tassa straordinaria, una tantum. Ecco, uno dice, perché veda, se il debito pubblico dovesse diminuire, intanto perché i professionisti e gli imprenditori come me tirano fuori un po' di soldi, insomma, no? Si tassano, ma anche gli impiegati e gli operai dovessero lavorare di più, 4 ore più, tutto questo va a beneficio del debito. Del debito pubblico. E poi, guardi, mi dovresti dire che è il momento di fare anche dei sacrifici, cosa che non mi pare, che la gente manca qui, manca là, però insomma i sacrifici bisogna ritornare un po' indietro nel tempo, quando i nostri padri lo facevano, lo facevano con il sorriso. Senta, però cavaliere, una parte della sua vita è stata dedicata al calcio, è inutile negarlo. Io mi ricordo ancora quando l'anno dei record l'Inter mi segnò con Beppe Bergomi nel derby sotto la curva, e io se lo ricordo. Era lì. Ero lì in curva, però in mezzo ai tifosi del Milan, però in mezzo in maniera a vivere. Vabbè. Senta, ma lei, visto che era l'Inter dei tedeschi, tiene alla Germania almeno alla finale dei mondiali? Ma guardi, non vi dubbio che io simpatizzo per la Germania, ma non perché abbia qualche cosa contro l'Argentina, perché anzi è una squadra molto simpatica, hanno un grandissimo, più grande giocatore del mondo che è Messi. Però la Germania, comprenderanno chi ci ascolta, da Rummenigge, che ho molto amato, Klinsmann, che ogni tanto sento, che è un grande allenatore, potrebbe servire anche qualche grande squadra italiana, e poi Bremer, e poi Matteus, grande Matteus. Insomma, tiene alla Germania, è troppo legato con il cuore alla Germania. E chi non si ricorda Sammer, persino Birov, che poi giocò nel suo Milan, esatto. Lo portai io qui in Italia. Pensi che bravo. Vabbè, quindi lei tiene alla Germania, troppi legami con la Germania. Milan. Senta, ma lei crede a questi parallelismi calcio-sistema-paese? L'Italia sbattuta fuori un po' a pezzi, la Germania invece che è motore dell'economia e che vedete come trita i sassi anche ai mondiali nel calcio. Ma io non credo ai parallelismi, ecco. Purtroppo noi abbiamo giocato una partita molto bella, tra l'altro vincendo meritatamente contro l'Inghilterra, poi non si è capito il blackout, con cosa sia successo con il Costa Rica e con l'Uruguay. Ci siamo messi in difesa, come spesso capitano alle squadre italiane, per difendere il pareggio che avrebbe consentito poi di passare al turno successivo, ma c'è stato un blackout, è successo qualcosa. È successo qualcosa. Mi dispiace molto per, me lo lasci dire, per il presidente Abete, che è un galantuomo, una persona che io stimo moltissimo, che ha dato le dimissioni. Non ho capito il motivo, ecco, non è colpa sua. Senta, uno come Balotelli, ai suoi tempi, uno come Beppe Bergomi, come l'avrebbe sistemato in spogliatoio? Ma Bergomi è un ragazzo straordinario, per bene, attaccato alla maglia, forse erano anche altri tempi. Mi pare che Balotelli, insomma, adesso, per carità di Dio, grandissimo giocatore, non vi è dubbio, tecnicamente, poi ha giocato anche nella primavera dell'Inter, quindi sì, anche in prima squadra. Scusi? Anche in prima squadra nell'Inter. Sì, dico, ha giocato nella primavera e poi nella prima squadra. Però ecco, mi pare che abbia difficoltà di rapporti un po', per quello che si legge, non lo conosco e mi dispiace perché ha dei numeri eccezionali. Forse avrebbe bisogno di qualcheduno che gli stia vicino, qualcheduno giusto, qualcheduno che che lo aiuti un po'. Mi dica nell'ultimo minuto disponibile un giudizio su Toir, glielo devo chiedere, insomma, l'idea dell'Inter agli stranieri, l'avrebbe mai pensata ai suoi tempi? Non avrei mai pensata, ma il mondo cambia, adesso c'è l'internalizzazione e quindi non so, succedono delle cose che possono essere accettate o non accettate, ma è così, è la realtà. È il mondo che cambia. Io l'ho conosciuto bene, è un ragazzo, perché sono 43 anni, è un ragazzo simpatico intanto. Ritengo anche generoso, affabile, semplice, e bisogna vedere, e questo io non lo so, se ha voglia di investire, se ha voglia di portare l'Inter ai livelli che gli competono, che gli competono, insomma, no? Staremo a vedere. Io ma intanto vabbè, guardi, che... come vede non ne ho parlato, perché stendiamo un velo pietoso stendiamo un velo pietoso. La ringrazio, cavaliere Ernesto Pellegrini, per essere stato con noi, davvero tanti in bocca al lupo anche per la sua nuova iniziativa, e noi ci riaggiorniamo a lunedì mattina alle 6:30 puntuali 24 mattino.